Il motto che lei stesso mi sembra ha scelto per questo evento è Passio Christi, Passio Hominis. Qual è il significato di questo motto? Ecco, il significato è questo, perché io ho pensato che questa ostensione doveva dare un messaggio, che è questo: invitare i cristiani, i credenti o anche tanta gente che è in ricerca, che non crede, ma che è venuta, ci sono venuti perfino persone di altre religioni a visitare la sindone, dare come messaggio un invito a contemplare la sofferenza di Cristo, di cui, ripeto, la sindone è uno specchio, no? è un riflesso che ci riporta tutte le notizie del Vangelo. Ma la contemplazione della passione e la sofferenza del Signore ci induce a dire per chi e perché l'ha fatto, perché ha accettato questa sofferenza, perché Gesù ha detto un giorno: la mia vita sono io che la dono, nessuno me la toglie. Quindi è un atto di offerta, di sacrificio libero che lui si è sottoposto a questo, perché se lui voleva evitare, quante volte nel Vangelo lui ha evitato arresti, volevano prendere, se ne andava via, eccetera. E quindi contemplare questa sofferenza e capire che è stata fatta per amore. Allora, se Gesù ha amato me in questo modo, soffrendo così, io cosa devo fare? Rispondere a questo amore a lui e poi accorgermi che nei fratelli, negli uomini e donne di oggi, nei bambini, negli adulti, negli anziani, negli ammalati, questa passione di Cristo, questa sofferenza continua, non solo continua, ma acquista un senso, acquista un significato, acquista un valore proprio dalla sofferenza di Cristo, perché lui si è addossato tutte le nostre iniquità e ha preso su di sé tutti i nostri dolori per renderli redentivi. Difatti sia Isaia che poi l'Apostolo Pietro, citando Isaia, dice: dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, guariti dal peccato e guariti anche da tanti egoismi che ci avvolgono. Per cui il motto che io ho scelto è stato proprio questo: contempliamo Gesù, ma non dimentichiamo i fratelli sofferenti che attendono la nostra solidarietà, la nostra vicinanza, il nostro conforto, il nostro soccorso, il nostro aiuto.